violenza psicologica. Big Ben DJ sul beat, Zero Blio, mezzo Milano. Psicologica, correnti di pensiero negative dentro un'era tecnologica. Diapositive in serie accantonate da un sistema schiavizzante. Siamo parassiti effeminati, squilibrati, mentalmente emancipati dalle donne. Pensiamo alla carriera in questa enorme sputacchiera. Per problemi di erezione con lo sguardo da pantera, lasciamo i figli al gioco di uno schermo e una tastiera. Poi mangiamo cibi scatola, viziati, palpitanti dai bombardamenti telecomandati dai mass media dei potenti. Ci vogliono inservienti da schiacciare come insetti colmi di complessi nervi soddisfatti dagli eventi. Senza privacy, la tua posta elettronica è inquinante come Ethernet. Vermi latitanti, vittime di abusi di potere, pronti per emergency, balene come Moby Dick. Ti idealizzano ma tu non sei nessuno, palinsesto falso di qualcuno, fenomeno a digiuno, numero nudo, è un'impotenza psicologica, latita cronica. Ti idealizzano ma tu non sei nessuno, palinsesto falso di qualcuno, fenomeno a digiuno, numero nudo, è un'impotenza psicologica, latita cronica. Il mondo del lavoro è una pedina col sonaglio, un'arma a doppio taglio, siamo cani al suo guinzaglio. La diseducazione maniacale prende forma tra le menti ancora acerbe, trasformandosi in dettaglio. Imbavagliati dai reality, viviamo come simboli, ci creiamo nuovi idoli. La cessazione autonoma di stimoli ci porta ad un futuro paranoico di sterilità ai testicoli. È una vendita all'incanto di fenomeni, spaventa la normalità comune dei più umili. Stupiscono gli eccessi, egocentrismi, cose futili, bioritmi logorroici, ma siamo solo numeri. È un'impotenza psicologica, un flusso di coscienza che ti aliena e cambia ottica. Neuroni fanno a pugni con gli ormoni, macinando compromessi, ma la chiave del successo è la pace dei sensi. Ti idealizzano ma tu non sei nessuno, palinsesto falso di qualcuno, fenomeno a digiuno, numero nudo, è un'impotenza psicologica, latita cronica. Ti idealizzano ma tu non sei nessuno, palinsesto falso di qualcuno, fenomeno a digiuno, numero nudo, è un'impotenza psicologica, latita cronica.